Buonasera a tutti, buon sabato sera e bentornati qui su Tonight Alive, sempre su Radio Wombat. Si spera come ogni sabato sera mi seguiate e stasera grande apertura, grande sigla per questa puntata di Tonight Alive. Non so, qualcuno magari l'avrà riconosciuta. È il pezzo più famoso in assoluto, ormai diventato standard del protagonista della puntata di stasera, ovvero Thelonious Monk. Questa era Round Midnight nella versione registrata nel 1958 per le Complete Riverside Records con Charlie Russell, sax tenore. Però prima di tornare nell'America del jazz, volevo ricordarvi tutti i nostri indirizzi e tutti i modi per contattarci, e sono ovviamente il nostro sito internet che è wombat.noblogs.org, la nostra mail che è postawombat@insiberia.net e i nostri contatti social, che sono su Twitter Radio Wombat Fi e su Facebook Radio trattino Wombat trattino Firenze. Però ecco, torniamo subito a bomba al protagonista di stasera, appunto Thelonious Monk. Era tanto che non rifacevo una puntata sul jazz, e quindi mi era venuta voglia di ripresentarvi o magari farvi conoscere un altro jazzista dopo le puntate, quelle natalizie su Duke Ellington, sul Quintet, su Charlie Mingus. Il protagonista di stasera è un altro assoluto gigante del bebop, ma come vedremo anche non solo del bebop. Thelonious Sphere Monk, questo è il suo nome completo. È nato il 10 ottobre del 1917 a Rocky Mountain in Carolina del Nord, ma molto presto, all'età di 5 anni, già si era trasferito a Manhattan, a New York City. Monk iniziò a suonare il pianoforte da bambino, intorno all'età di 6 anni, e anche se ampiamente autodidatta, studiò sia teoria musicale, armonia e arrangiamento alla Juilliard School of Music, e poi frequentò anche la high school, però senza finirla. E come primo approccio verso lo strumento ha iniziato anche molto presto a suonare l'organo per un coro evangelico, prima di trovare posto come musicista jazz. Appunto, tutto comincia verso l'inizio degli anni 40, quando Thelonious Monk era il pianista fisso dello storico nightclub di Manhattan, il Minton's Playhouse, e gran parte dello stile che Monk svilupperà in questo periodo d'apprendistato al Minton's sarà quello, il periodo di maggior prolificità a livello produttivo, e anche forse, ma a livello qualitativo anche dopo ha avuto dei grandissimi picchi. Però ecco, se si può dire una cosa lì del Minton's, è che il Minton's era proprio il ritrovo di quelli che poi saranno stati i fondatori del movimento bebop. Al Minton's, per le jam session notturne, potevi trovare artisti del calibro di Dizzy Gillespie, Charlie Christian, Kenny Clarke, Charlie Parker, tutta la banda che stava portando il jazz dal periodo swing al periodo bebop. E in queste infuocate jam notturne sono state sicuramente terreno fertile per poi tutti quei compositori che andarono a formare appunto il movimento bebop. Però sicuramente il suo stile all'epoca venne descritto come hard swinging, con delle con delle incursioni anche nello stile di un funambolo del tempo del piano come era Art Ethem. Ma le influenze dichiarate di Monk sono sempre state, sì, Duke Ellington, ma anche molti pianisti stride, come ad esempio James P. Johnson, che ricordo che lo stile stride piano nasce a New York nella mescolanza tra il blues di New Orleans con il ragtime. Era proprio uno stile caratteristico dei pianisti di Harlem degli anni 20 e appunto i più famosi pianisti stride che hanno fondato appunto questo stile sono appunto James P. Johnson, ma l'ancora più famoso Scott Joplin. Come prima esperienza in una big band, subito dopo arriverà l'ingaggio con l'ex trombettista di Ellington, Cootie Williams, per cui nel 1942 scriverà Epistrophe e anche l'immortale Round Midnight del 1944, quella che abbiamo appena ascoltato come sigla di stasera. E dopo aver militato nella formazione del trombettista Harvey Davis al Cinderella Club, nel 1944 debutta ufficialmente su disco con il quartetto di Coleman Hawkins Press, altro grandissimo sicuramente del jazz in generale, ma in particolare dello strumento, cioè tantissimi tenor sassofonista, insieme a Lester Young sicuramente sono stati i due che hanno gettato le basi per tutto quello che è venuto dopo, ora non me l'ho voluto dire per John Coltrane, non mi veniva quando ce l'hai sulla punta della lingua. E appunto per il quartetto di Coleman Hawkins scrisse I'm in You nel 1946, ma soprattutto sempre nello stesso anno 52nd Street Theme, che poi è stato reso uno standard nell'interpretazione del 1947 di Dizzy Gillespie e di Charlie Parker. Ma appunto, in questo stesso periodo in cui le composizioni di Monk stavano lasciando un segno indelebile nella transizione dallo swing al bebop, il suo stile pianistico al tempo confondeva molto il pubblico, perché era uno stile che sembrava fuori dalla tradizione jazz, non solo eccentrico ma anche laconico, quasi controproducente nel modo in cui sottolineava le pause anziché il ritmo, e preferiva questi grappoli di accordi ad uno sviluppo più lineare della melodia. L'arte di Monk era un calibrato equilibrio di tecniche di decostruzione e di straniamento. Da un lato, sì, si potevano ancora sentire gli elementi dello stride jazz, del boogie-woogie e del blues, ma dall'altro l'ascoltatore restava disorientato dalla fragile, nuda ambiguità della musica, un'ambiguità che svaniva solo che sarebbe svanita solo riuscendo ad apprezzare la nascosta qualità orchestrale nel modo in cui Monk suonava il pianoforte. E Coleman Hawkins fu uno dei primi musicisti jazz affermati a sponsorizzare e a credere subito in Thelonious Monk, e Monk ricambierà poi il favore in seguito invitandolo a prendere parte alle sue sessioni del 1946 57, appunto con John Coltrane. Ma nel 1947 Monk effettuò la sua prima registrazione come band leader per la Blue Note, ovvero Genius of a Modern Music Volume 1. E da questa raccolta, appunto, ci ascolteremo un altro grande classico della musica di Monk, che è Ruby My Dear, che in questo caso è proprio nella versione originale uscita in 78 pollici, uscita il 24 ottobre del 1947, con Art Blakey già alla batteria accanto appunto al piano di Thelonious Monk. E questa è Ruby My Dear. Questa era Ruby My Dear e non la Ruby che vi viene subito in mente. Si spera per Thelonious proprio tutta un'altra Ruby. Però ecco, sempre nel 1947, Thelonious Monk sposò Nellie Smith, e nel 1949 poi nacque il primo figlio, T.S. Monk, e nel 1953 anche la primogenita Barbara, soprannominata affettuosamente Boo Boo. Ma negli anni 50 sono gli anni del piano quintet, con Milt Jackson al vibrafono, Sahib Shihab al sax alto e Art Blakey alla batteria. E ricordiamo tra i loro grandi classici del periodo sicuramente Ask Me Now del luglio del 1951 e il blues Straight No Chaser, grande classico, anche questo poi successivamente diventato uno standard, scritta sempre nel luglio del 1951. E invece nell'agosto sempre di quell'anno la polizia di New York City fermò l'auto sulla quale stavano viaggiando Thelonious Monk e l'amico pianista Bud Powell, e gli agenti trovarono dei narcotici a bordo, quasi sicuramente di proprietà di Powell, ma Thelonious Monk, giustamente da buon amico, si rifiutò di testimoniare contro il suo amico, appunto, e quindi per rappresaglia la polizia gli confiscò la sua tessera del sindacato dei musicisti, e senza la quale non si sarebbe potuto esibire dal vivo in tutto il territorio di New York City. E quindi Monk trascorse la maggior parte della prima metà degli anni 50 componendo, incidendo ed esibendosi al di fuori, appunto, della città di New York City. E di questo periodo del 1951, esattamente del 23 luglio, ci ascoltiamo adesso un altro classico della discografia monchiana, che è Aeronel, uscita appunto nel 51 per la Blue Note, con Sahib Shihab al sax alto, Milt Jackson al vibrafono, Thelonious Monk ovviamente al piano e Al McKibbon al basso e Art Blakey alla batteria. E sentiamoci Aeronel. E questa era Eronel, altro grande classico della discografia monchiana. Ma appunto per proseguire sempre con l'inizio degli anni 50, nel formato piano trio caro all'amico Bud Powell, Monk scolpì Bem Cha Swing nel 1952, la caraibica Monk's Dream, sempre nel 52, e Natty, che ci andremo a sentire dopo nel concerto che vi farò ascoltare alla fine della puntata, appunto Natty, scritta nel settembre del 1954. Ma sempre nel 1954, anno veramente molto prolifico a livello qualitativo e quantitativo per Monk, sempre dello stesso anno, sono anche Blue Monk e la Dissonante Work. E Max Roach suonerà la batteria in Bem Cha Swing, che è un altro, quella registrazione con Roach è un altro grande classico della discografia monchiana. E invece c'è l'amico e il collaboratore di quasi sempre, l'altro grande della batteria del tempo, Art Blakey. E dopo un ciclo intermittente di sedute di registrazione per la Blue Note di questo periodo 47-52, venne messo sotto contratto dalla Prestige Records per i successivi 2 anni. E appunto con la Prestige incise diversi album significativi, come appunto questi. Alcuni dei brani che vi ho già citato con collaborazioni importanti come quella con Sonny Rollins o con Art Blakey appunto e Max Roach. Sempre nel 1954 Monk partecipò alle sessioni che produssero gli album Bang's Groove e l'album di Miles Davis and the Modern Jazz Giant, sempre del 54. E ora ci ascoltiamo un altro pezzo di Monk che è diventato poi uno standard, appunto la già citata Straight No Chaser, che appunto sì, è stata scritta nel 51, ma verrà messa ufficialmente in versione ufficiale su LP solo nel 1967 con l'album omonimo con appunto Thelonious, con la formazione con Thelonious Monk al piano, Charlie Rouse al sax tenore, Larry Gales al basso e Ben Reilly alla batteria. Bene, questa è Straight No Chaser nella versione del 1967. Inconfondibile. Thank you. We'll be right back. e questo era lo standard, quello che poi è diventato uno standard Straight No Chaser nella versione uscita sull'album nel 1967, ma appunto, come ricordo, in realtà scritta nel 1951. Certo, in questa interpretazione del 1967 si sente già molto differenza proprio a livello di musica, a livello proprio di linguaggio jazz rispetto alle composizioni degli anni 40 e degli anni 50 che abbiamo sentito fino adesso. Però ecco, questo è veramente quello che è diventato un grande classico del jazz, appunto Straight No Chaser. Ma torniamo a noi, e sempre in quel 1954 Thelonious Monk andò per la prima volta in Europa e eseguendo e registrando a Parigi il suo primo album di solo piano, di soli assoli pianistici, sull'etichetta francese Disc Vogue. E nel backstage di quelle registrazioni parigine, Mary Lou Williams presentò a Thelonious Monk la baronessa pannonica Nika de Königswarter, che era un membro della famiglia dei Rothschild e mecenate di svariati musicisti jazz di New York City, tra i tanti anche Charlie Parker. E la donna divenne un'amica intima di Thelonious Monk per il resto della sua vita, ed egli e Monk in suo onore scrisse anche un pezzo pianistico, un altro suo grande classico, intitolato appunto Pannonica. Ma nel frattempo la musica jazz era entrata nell'era dell'album dei 33 giri, e il suo primo album da solista omonimo, intitolato appunto Thelonious Monk, uscito nel giugno del 1954, offriva le versioni pianistiche dei suoi primi classici, appunto tra cui Eronel, che abbiamo già sentito, e Reflections del 1953. Dopo due album di cover, appunto per la Prestige, a Monk fu permesso per la prima volta di fare l'album di cui era capace, nell'ottobre del 1956 nasce quel capolavoro che è Brilliant Corners, che è una serie di complessi pezzi cameristici per sassofono tenore, quello di Sonny Rollins, sax alto di Ernie Henry, basso, niente po' di meno che Oscar Pettiford, batteria, niente po' di meno che Max Roach, e pianoforte appunto di Thelonious Monk. E in particolare la title track, ovvero Brilliant Corners, e la già citata Pannonica, in cui Thelonious Monk suonava sia il pianoforte e sia la celesta. Brilliant Corners diventerà il capolavoro assoluto della discografia di Thelonious Monk, il mio preferito insieme al successivo Monk's Music. E appunto, per farvi capire di cosa si stia parlando, nel caso non lo conosciate, adesso ci sentiremo appunto Brilliant Corners con questo quintetto nella versione originale del 1957. Brilliant Corners. band a Brilliant Corners. Si dice che nelle registrazioni dell'album, per via dell'estrema complessità tecnica del brano, per questa versione, appunto, poi finita nell'album, sono state necessarie diverse take e diverse prove prima di raggiungere, appunto, il risultato finale. E certo, i musicisti accanto a Monk non erano sicuramente i primi che passavano per la strada, erano tutti dei grandissimi, quindi immaginatevi la difficoltà tecnica per eseguire questo brano. E dopo aver riottenuto nuovamente la tessera del sindacato dei musicisti, Monk ricominciò in grande stile ad esibirsi a New York, con un periodo di 5 mesi filati al Five Spots Café, a partire dal giugno del 1957, guidando un quartetto con John Coltrane al sax tenore, Wilbur Weir al contrabbasso e Shadow Wilson alla batteria. E l'ingaggio al Five Spot terminò nel Natale del 1957. E Coltrane lasciò il gruppo per riunirsi nuovamente alla band di Miles Davis, e quindi questo quartetto si sciolse. E Monk tornò a suonare al Five Spot nel 1958, questa volta in gruppo con Griffin, che poi verrà sostituito da Charlie Ruse al sax, Ahmed Abdul-Malik al contrabbasso e Roy Hines alla batteria. Poi sempre in quel magico 1957 per Monk collaborò con i Jets Messengers dell'amico Art Blakey per l'album Jets Connection, che rivisitò molti dei suoi grandi classici, così come fece nell'album a suo nome, il Monk's Music, che vi dicevo poco fa, che è stato pubblicato nel giugno sempre di quel 1957, con questa volta in sestetto, ma un sestetto veramente stellare, con Ray Copeland alla tromba, Coleman Hawkins e Gigi Grice ai sax, Art Blakey alla batteria e Wilbur Weir al basso. Ma appunto, sentiamoci, preso da Monk's Music, Off Minor nella sua quinta take, con appunto anche in questo caso con ovviamente Monk al piano, Copeland sempre alla tromba, Gigi Grice al sax alto, Coleman Hawkins e John Coltrane ai sax tenori e Wilbur Weir al contrabbasso e ovviamente Art Blakey alla batteria. E questa è Off Minor nel suo take numero 5 del 1957. Thelonious Monk. Thank you. E questa era Off Minor nella sua Take 5, proprio con un sestetto fantastico e stellare per Thelonious Monk. Ma adesso arriviamo ad un punto cruciale della vicenda umana del nostro, perché il 15 ottobre del 1958, mentre erano in viaggio verso il Comedy Club di Baltimora, nel Maryland, Thelonious Monk e la De Koenigswarter, la famosa pannonica, furono fermati dalla polizia vicino a Wilmington, nel Delaware. E quando Monk si rifiutò di rispondere alle domande del poliziotto sul perché viaggiasse insieme a una donna bianca, gli agenti fondamentalmente lo massacrarono di botte. E sebbene nell'auto furono rinvenute anche degli stupefacenti, anche il giudice della Corte Suprema del Delaware invalidò le accuse di detenzione di narcotici a causa della violenta aggressione nei confronti di Monk, operata appunto dagli agenti di polizia della pattuglia. E da questo evento Monk già aveva una psiche molto, molto, molto labile e complessa. Dopo questo evento rimase veramente completamente traumatizzato. Infatti, nel corso del tempo, in quegli anni, fu anche ricoverato diverse volte poi a causa delle sue condizioni mentali. E dopo 4 anni, dopo svariati negoziati, nel 1962 Monk riuscì nuovamente a firmare un contratto con un'etichetta discografica, in questo caso con la Columbia Records, per il suo ritorno sulle scene dopo appunto questi 4 anni molto travagliati per la sua persona. E appunto in quel 62 la Columbia Records lo mise a lavorare accanto a quello che allora era il produttore di Miles Davis, Tio Massiro, e nel 1963 uscì Monk's Dream, l'album di debutto sull'etichetta Columbia. E appunto quest'album divenne il suo più grande successo di vendite in carriera. E addirittura il 28 febbraio del 1964 Monk apparve addirittura sulla copertina di Time. E continuò poi nel corso degli anni, con esiti alterni, continuò a lavorare in studio, anche incidendo album poi diventati famosi come Criss Cross del 63, il suo album per solo piano, che si chiama appunto Solo Monk del 1965, e quello che abbiamo ascoltato in precedenza, che avevo fatto ascoltare poco fa, Straight No Chaser del 1967, e anche Underground del 1968. Ma il suo periodo alla Columbia fu avaro di nuove composizioni originali in favore della pubblicazione di svariati album dal vivo, in cui tra l'altro ci possiamo ricordare Miles e Monk at Newport nel 1963. Appunto, una registrazione dell'intervento delle due band al Festival Jazz di Newport del 1963, e anche Live at the It Club e Live at the Jazz Workshop, entrambi del 1963. 1964. E adesso ci ascolteremo quello che è uno standard assoluto della musica jazz, ovvero Body and Soul. E ovviamente Body and Soul è quello che poi è diventato assolutamente uno standard del jazz, però in verità è stato composto da Edward Heyman, Robert Sauer, Frank Haythorn e Johnny Green per Gertrude Lawrence. E poi fu successivamente registrata da Louis Armstrong e anche dalla band di Paul Whiteman, ma che poi raggiunse la sua versione standardizzata dopo la stratosferica interpretazione strumentale al sax di Coleman Hawkins nel 1939. E questa appunto è la versione che ne ha dato Thelonious Monk. In questo caso ho scelto per voi una registrazione fatta a Milano nel 1961 al Teatro Lirico, con in questo caso Thelonious Monk al piano, Charlie Russe al sax tenore, John Ory al basso e Frankie Dunlop alla batteria. Quindi questo è Thelonious Monk nella sua interpretazione dello standard Body and Soul nel 1961 al Teatro Lirico di Milano. Body and Soul, Thelonious Monk. Thank you. E questa era Body and Soul nella versione di Thelonious Monk, registrata nel 1961 al Teatro Lirico di Milano. E Thelonious Monk scomparve dalle scene nella metà degli anni 70, facendo in seguito solo qualche sporadica apparizione. La sua ultima seduta in studio come leader ebbe luogo nel novembre del 1971 per l'etichetta britannica Black Lion, alla fine del tour mondiale dei Giants of Jazz. Il bassista Al McKibbon, che conosceva Monk da più di 20 anni e sono insieme a lui nel tour del 1971, appunto, raccontò in seguito: In quella tournée Monk disse al massimo due parole, intendo veramente solo due parole, non salutava, non chiedeva che ore fossero, niente di niente. Il perché non lo so. Ci scrisse una lettera alla fine del tour dicendoci che la ragione per la quale non riusciva a comunicare o suonare con noi era perché Art Blakey ed io eravamo troppo brutti. Ed erano due persone, sia Al McKibbon che Art Blakey, che conoscevano ed erano amici di Monk da più di 20 anni. E mentre il suo stato di salute mentale peggiorava sempre di più, Monk trascorse i suoi ultimi 6 anni di vita ospite nella dimora del New Jersey dell'amica e benefattrice della baronessa Pannonica. E durante questo lasso di tempo non suonò mai più il piano e si chiuse in un ostinato mutismo, incontrando pochissime persone. E morì il 17 febbraio del 1982 e venne sepolto lì a New York 11 anni dopo, nel 1993, gli venne assegnato postumo il premio Grammy. E Thelonious Monk non è stato solo il pianista più cerebrale ad entrare nella storia della musica jazz, ma è anche stato il maggiore compositore del periodo bebop e sicuramente uno degli ispiratori del movimento free jazz. Giusto per ricordarmi, per i primi tre che mi vengono in mente, il trombonista Roswell Rudd, Don Cherry e Steve Lacy non avrebbero potuto fare la strada, che sono i suoi tre più grandi allievi che mi vengono in mente, non avrebbero potuto fare per la musica jazz quello che hanno fatto se non fossero stati appunto allievi e assolutamente dei devoti della musica di Thelonious Monk. Infatti Steve Lacy, una volta staccatosi da Monk e da Cecil Taylor con il suo quartetto, per più di 10 anni ha inciso solo ed esclusivamente interpretazioni delle canzoni di Thelonious Monk. Diceva in una sua intervista che probabilmente sapevano più canzoni di Thelonious Monk loro che forse non Thelonious Monk stesso, perché le sue composizioni totali sono circa 70-80, il quartetto di Lacy le faceva tutte, e invece Monk a seconda dei periodi preferiva più incentrare le sue esibizioni su un determinato periodo. E siamo arrivati appunto alla presentazione del concerto che vi farò sentire adesso, subito dopo, che ho scelto per voi, secondo me pura storia del jazz, ovvero il Thelonious Monk Quartet con John Coltrane alla Carnegie Hall il 29 novembre del 1957. Questa è la registrazione dell'evento denominato Thanksgiving Jazz, che è stato un benefit, un concerto benefit per la Morningside Community Center di Harlem, per raccogliere fondi appunto per questo centro, e fu un grande concerto tra gli interpreti che suonarono a questo benefit. Ricordiamo Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Sonny Rollins e anche Chet Baker con Zoot Sims. Questa registrazione, che è stata fatta a cura della Voice of America, documenta appunto i due set del quartetto di Monk insieme a John Coltrane, avvenuti in quella notte. Una curiosità è che queste registrazioni erano dimenticate alla Library of Congress ed erano praticamente neanche state toccate fino al 2005, quando un supervisore delle registrazioni riscoprì appunto i master di questo concerto, e con l'aiuto del produttore Michael Cuscuna e del figlio T.S. Monk restaurarono e pubblicarono appunto questo storico concerto, che appunto era il quartetto di Thelonious Monk con al sax tenore, in questo caso John Coltrane, al basso Ahmed Abdul Malik, e con Shadow Wilson alla batteria. Quindi non mi resta che farvi finire di godere con questo concerto di Thelonious Monk e John Coltrane, e darvi appuntamento al prossimo sabato, sempre qui con Tonight Alive su Radio Wombat. E se vi posso dare un consiglio, tenete d'occhio il palinsesto di Radio Wombat, perché qui il vostro Dalai Lama da settimana scorsa, insieme a Prog 75, ha iniziato uno speciale programma estivo Basement Records, dove vi faremo ascoltare rigorosamente sui vinili d'epoca grandi i ritrovamenti fatti in cantina dalla cantina di un DJ fiorentino che suonava alla radio in quel periodo. Quindi proprio uno spaccato della musica che va dal 1969 al 1972, rigorosamente solo in vinile 7 pollici. No, non perdetevelo. E quindi vi lascio al Thelonious Monk Quartet, e a sabato prossimo con Tonight Alive. E enjoy Thelonious Monk and enjoy Wombat.